lasciano niente. Le parole già sentite dalle bocche della gente, mi grida forti contro di te. Nessuna speranza forse dietro di te. Sei già sicuro di quello che sei, non cambierei mai niente, tanto meno per lei. Chi ti vuole non averti così, e se nessuno ti vuole forse è meglio così. Ritorna di Night Podcast. Quest'oggi abbiamo non il solito gruppo di vecchioni come sono al solito intervistare io, che mi dicono che sono un amante della vecchia scuola e bla bla bla e su e giù. Quest'oggi abbiamo uno degli orgogli della Savona Punk, un gruppo che diciamo fa parte della nuova generazione, la generazione dei gruppi punk savonesi degli anni 2000, se vogliamo. Ovvero qua con noi abbiamo i 5MDR nella persona di Giulio. Ciao a tutti. Allora, dunque, ci siamo sentiti come prima canzone La mia strada. Parlaci un po' di questo pezzo, poi ti chiederò varie altre cose. Ci saranno anche domande da altre persone, penso a te. Allora, La mia strada è un pezzo come tanti altri dell'album che, diciamo, sono di stampo introspettivo. È più che altro un'analisi di quello che è la mia vita, visto che il testo l'ho scritto io comunque, quello che è la mia vita, come può essere quella di tantissimi altri ragazzi che hanno una certa attitudine, frequentano un certo giro, hanno certe idee. Niente, forse la cosa che volete trasmettere questo pezzo è la perseveranza, di restare sempre fedeli ai propri ideali, nonostante spesso sia una rottura di cazzo, perché sarebbe sicuramente più facile andare in discoteca, drogarsi, fregarsene di tutto, di politica, di qualunque cosa. Ecco, non è tanto, diciamo, banale il fatto che un gruppo OI, anche se poi voi non siete proprio un gruppo prettamente OI, sì, come ho detto anche in altre circostanze, non è una cosa tanto banale avere una vena introspettiva, nel senso, comunque le citazioni agli stereotipi, quelli che sono poi gli stereotipi skinhead, ci sono ma sono molto velate, nel senso che le capisci se sei un po' addentro la questione, certe frasi che fanno riferimento a, però sono molto, sì, velate. È una scelta o... Più che una scelta è una cosa che ci viene spontanea quando scriviamo canzoni. Dunque, in realtà non siamo i primi che lo facciamo, nel senso, è una cosa che succede da tanto, ma anche nei gruppi vecchi, cioè Classe Criminale, anche parlano di, cioè, fanno, parlano comunque della fatica del vivere in un certo modo, delle domande che ci si pone. E non rimaniamo sempre attaccati ai soliti stereotipi, perché non è una cosa, secondo me è una cosa che non ha senso, non ha senso proporre cose che potevano proporre i Basta, il Classe Criminale o altri ai tempi, ma quando lo facevano loro aveva senso perché erano i primi a farlo, dicevano qualcosa di nuovo e di punk e di rivoluzionario. Se lo diciamo noi adesso siamo delle copie, e secondo me proporre quello che facevano negli anni 80 e farlo peggio non avrebbe senso, perché allora piuttosto mi ascolto un gruppo degli anni 80 o un gruppo degli anni 90 che possono essere i Colonna Infame o quant'altro. Allora adesso una domanda qui dal pubblico nella persona di Arianna e Isabella. Piacere. Ciao. Allora, chi vuole iniziare? Inizi te. Inizi te, Isa. Vorrei chiedervi cosa sentite quando scrivete tutte le canzoni? Ma quando scriviamo, per quello che posso, io mi attengo a quello che scrivo io. Non è tanto un sentire, più che altro sì, sentire, si sente qualcosa prima di scrivere le canzoni, e mentre si scrive ci si sfoga. Infatti ogni canzone è particolare perché deriva da un certo stato d'animo, da certe cose che mi sono successe o che sono successe agli altri del mio gruppo che scrivono. O che comunque succedono in generale, perché in generale, molte canzoni, sì, beh, certo, mi ci ritrovo anch'io, non è che... Cioè, l'importante e il bello di scrivere sia quello, che scrivendo cose che si pensano, dopo ci si possa rispecchiare. Mentre si scrive, si ha soddisfazione magari se si riesce a fare un pezzo bello. E poi vabbè, dopo che si scrive è bello quando si sente che piace, si sente i ragazzi sotto il palco che lo cantano. E quant'altro, sì, la soddisfazione di avere una certa empatia, cioè sì, sentire che uno sente proprio una cosa che avevi dentro te, esatto, ti fa sentire meno solo. Io ho sentito, ascoltandola, i vostri brani, soprattutto mi ha colpito la canzone Da Solo del vostro primo album, che di cui parleremo dopo, quindi tieniti la domanda per quando parleremo di quella canzone lì, non è per tranciarti, no, ma per non... Se no anticipare viene brutalmente dal regista, nonché conduttore. E adesso ci sentiamo quella che forse per me è la canzone più legata alla natura skinhead di tutto l'album, che è Ancora Qua. Ci andiamo a ascoltare quella lì e poi ne parliamo dopo. Maledetta gioventù, cosa mi porti a fare? È un'altra birra che va giù e la voglia di sfogare. Tutto il dolore, tutti i calci presi in culo, tutta la bile che hai sputato è tutto il tuo futuro. La strada è buia e non ti importa della gente, tanto hai capito che qualunque cosa compi, gli sguardi sono sempre fissi sopra i tuoi cappelli corvo. E se c'è chi non ti rispetta, già segnato le sue sorti. E il cuore suo si infiammerà, gioventù cosa mi porti a fare? È un'altra birra che va giù e la voglia di sfogare. Tutto il dolore, tutti i calci presi in culo, tutta la bile che hai sputato e tutto il tuo futuro. La strada è buia e non ti porta della gente, tanto hai capito che qualunque cosa compi, gli sguardi sono sempre fissi sopra i tuoi capelli corti. E se c'è chi non ti rispetta, già segnato le sue sorti. E il cuore suo si infiammerà, non ha il controllo e lui lo sa. Questa che pensa chi cazzo glielo fa fare, bestemmia e grida. Ma lui rimane ancora qua, sotto la pioggia, accanto a un pub, con tutto il peso del rancore. Ancora qua, che proprio dà proprio l'idea del amore e odio verso la propria attitudine, che poi è una componente che accompagna tendenzialmente tutte le varie vene della musica punk, cioè il senso di essere così per necessità nonostante se stessi. Esatto, sì. Ancora qua, sì, sicuramente rispecchia questo modo di vedere le cose. Io posso parlare per me, non posso parlare per gli altri. Io se sono così è perché me lo sento, perché non potrei essere un'altra cosa, perché prenderei per il culo me, prenderei per il culo chi mi sta intorno. Che comunque è la prassi, prendere sì. Per il culo se stessi e chi sta intorno. Adesso noi fra di noi abbiamo un certo tipo di attitudine, parliamo in un certo modo, però purtroppo là fuori sì, si tira a nasconderci, sì. Non so cos'altro dirti in realtà. Volevo farti una domanda, visto che questo podcast... Nello specifico così. Certo. Ma parlando proprio di Skinhead, visto che questo podcast non va in un sito prettamente punk, quando si parla di Skinhead, sì, visto che sei il primo gruppo che ha componenti Skinhead, okay, che intervisto, si tende sempre a fare... un fascio littorio. Esatto. Vuoi fare un breve excursus? Anche mi sembra anche bello, perché te comunque sei giovane, e quindi se lo chiedessi a uno della vecchia guardia certe cose le ha vissute, mi potrebbe dire: ah, io quella volta al raduno di Certaldo, sì, allora da una parte sarebbe meglio, forse sarebbe perché... meglio, però è anche bello che qualche di giovane lo dicesse, che vuol dire che nonostante uno non c'era, però se vuole le cose può sapere com'è. Sì, sì, va bene. Allora, parlando della sottocultura skinhead o controcultura, che dir si voglia, stile, attitudine, c'è da dire che i media lo generalizzano come un fenomeno di destra, ma perché naturalmente uscito fuori negli anni 80, secondo me sicuramente colpiva di più un movimento di giovani violenti di destra che un movimento di giovani violenti di sinistra, o comunque apolitici magari o anarchici, che ce n'era stati più negli anni 70 e la gente non ne poteva più. Allora, per colpire, il media cosa ha fatto? Per vendere di più ha fatto questo. In realtà il movimento skinhead nasce negli anni 60 a Londra, dall'incontro tra i Rude Boys giamaicani, quindi mi pare fosse immigrati, fossero abbastanza sì, marroncini, e i mods della working class inglese, casa ascoltavano jazz, quindi già comunque, a parte il Britpop eccetera, quindi già musica nera. Il soul anche, molto. Il soul che però è stato portato da, dai Rude Boys, che appunto portavano soul, comunque suoni giamaicani, lo ska, il reggae. Si sono incontrati e c'è stata un'evoluzione, uno scambio di... culturale. Culturale, sì, esatto. Ed è nato prima l'hard mode, che comunque assieme allo skinhead, e poi lo skinhead, che in origine era politico, perché non c'era proprio niente a che fare con la politica. Sicuramente quello che mi viene da pensare anche dei nazi, che se ti vesti in un modo che se lo sono inventati i negri e ti metti marche addosso, dico negri perché dico come lo direbbero loro, sì. E ti metti marche come Fred Perry o Ben Sherman, che erano persone di origine ebraica, scemo, che cazzo ti vesti da negro, sei nazista. Certo, ma un po' come tutti i gruppi, che ne so, mi viene in mente Infame Ska degli Z0 Alpha, cioè che sono gruppi ultra neofascisti che però fanno canzoni ska. Anche Legittimo Offesa hanno una canzone tipo semi ska, perché comunque nelle mie cose mi sono anche infatti che cazzo, no, conosci il nemico, sì, come si suol dire, non per giustificarmi, no, sì. E quindi da quello c'è stato poi, negli anni 80. Sì, poi non voglio neanche fare il dire agli skin di sinistra. Cioè, tanto vabbè, cioè. Un'altra domanda. Forse essere stati apolitici è stato forse una grossa debolezza. È stata una debolezza perché certe cose nascono senza politica, perché nel senso, come qualunque persona non nasce senza un'idea politica, e poi se la fa col tempo. Negli anni 80, col governo della Thatcher, il malcontento popolare, tutto quanto, il British Nazi Party eccetera è riuscito bene a mettere le mani su questi giovani ragazzi arrabbiati della working class, frustrati perché comunque c'era la disoccupazione, c'era la guerra nelle Falklands. E in questo sì, forse non avere già avuto una propria identità politica è stato un punto debole, perché Di Sissinger. Esatto, che è un film bellissimo perché ti racconta. Consigliato a tutti, tra sì, ti racconta senza faziosità come sono andate le cose. Ok, adesso parliamo della canzone, la prossima canzone, che è Da Solo, che appunto qui Arianna aveva una domanda in canna e gliela facciamo. Prima è stata tagliata brutalmente da quello stronzo del regista. E adesso gliela facciamo. Qui lo show business che qui do it yourself si infiltra. Sì, inesorabilmente. Prego. Beh, ho amato questa canzone qua soprattutto per il ritornello, perché io sono sempre stata una ragazzina che è sempre stata espulsa dalla società, come possiamo dire, per solamente un fatto estetico, e quindi volevo chiederti come hai fatto a tirare fuori una canzone così bella, cioè così personale, che non è facile peraltro. Ma io penso che quando si scrive canzoni bisogna scrivere... Questa è una domanda alla Maurizio, sì. Seimandi, lui sì che dovrebbe essere espulso dalla città. Sì. Quando si scrive una canzone secondo me va scritta col cuore, non con la testa, perché se ti metti lì a fare schemi metrici, dire cosa dico, magari anche con in testa un'idea su cosa scrivere, però ti vengono delle canzoni che non attaccano. Questa canzone mi è stata ispirata da un mio amico, che non lo sai in realtà che mi ha ispirato lui, vabbè. Eravamo allo Zapato a un concerto a Genova. Quindi potrebbe scoprirlo, proprio con questo podcast. Ma io non dico chi è, quindi sì. Solo lui lo scoprirà. Forse neanche lo scoprirà. Ah, interessante. E comunque niente, era fuori dallo Zapata da solo a bere di notte, e quindi tutto il è sotto quello. Con una sigaretta in mano. Sì, sa proprio di sì. E una birra nella. Niente, non è come ho fatto a scrivere una canzone così bella, perché mi viene in mente come mi diceva Davide del CGB, che poi alla fine i testi nascono da un evento normale, sì, che tu gli dai una simbologia universale. Esatto, secondo me è più, cioè tu vedi in un evento banale, esatto, vedi una metafora di un qualcosa che è, sì, secondo è me più universale, esatto, più che una storia magari, poi vabbè scrivere testi magari sociali eccetera, è tutto un altro paio di maniche. Per i testi come sono solito scrivere io, è più magari un momento che mi ispira più che tutto un avvenimento, più un'immagine da cui lì parti, e questo caso qui ad esempio, e quelle parliamo del particolare, esatto, parliamo del fatto che comunque tra l'altro magari scene analoghe ne hai viste migliaia prima, migliaia dopo, ma è stata proprio quella lì, esatto, che era il pathos del momento. Niente, comunque sì, cioè, penso che tante persone si possano rispecchiare in questa canzone, perché vabbè, io mi rifaccio alla mia scena, nel senso, beh, io lo definì un inno istantaneo la prima volta che l'ho sentita, perché comunque ho detto boh, è anche la mia vita. Eh sì, perché comunque io beh, l'ho fatta, cioè l'ho scritta pensando completamente all'ambito skin, però sicuramente essendo dei, sostanzialmente gli skinhead sono degli incompresi, perché tra l'alcol e è la violenza e tutto, a me viene sempre da fare una metafora abbastanza stupida. Secondo me chi è punk e skin, o comunque vede il mondo in un certo modo, poi non tutti gli skin e i punk, perché vabbè, lasciamo perdere. Avete presente Matrix? Secondo me chi ha attitudine punk ha scelto l'altra pillola, no, ha scelto quella si è risvegliato e vede delle cose che per lui sono lampanti, ma per gli altri non esistono, e questa cosa ci fa incazzare ancora di più. Cioè la brutalità della polizia, l'imposizione dello Stato, anche ora che vogliono legare il movimento ultras con la tessera del tifoso, che è una porcata solenne a livello legislativo, come disse anche il ministro dei quelli senza denti della legge elettorale. Sì, lo stesso di questa legge qui, perché è fatta come si fa l'italiano, ora a fare il discorso ultra, se è una legge fatta male proprio, partorita male. Quindi per me e altri queste cose qui sono assolutamente lampanti, e gli altri boh, vivono tranquilli come se tutto andasse bene, tutto fosse tranquillo, come nulla fosse. E questa cosa qui ci porta ancora di più a sentirci isolati e a sentirci arrabbiati. Perfetto, e quindi ci andiamo a ascoltare da soli. Certo, di domande sono sempre le stesse. Quando rimango da solo di notte, un bocale di birra ed una sigaretta, mi ritrovo ancora senza risposte. Delle domande sono sempre le stesse. Ma con orgoglio. Anni 2000, e adesso invece, dopo tanti test introspettivi, andiamo a un test concreto. Invece concreto di denuncia sociale. Esatto. Già ripreso come altri pezzi dal vostro EP, sì, della demo dell'anno scorso, ottima demo tra l'altro. Grazie. No, c'è da dire quello che è giusto. Ci andiamo ad ascoltare Stato di Allerta. Stato di allerta, c'è di nuovo Arianna che vuole porre un quesito e poi noi ci ricameremo cazzate sul quesito. Beh, che sì, volevo capire l'immagine del vostro disco del 2008, Stato d'allerta, come mai avete messo una stazione? Cioè, certo, nel secondo è abbastanza semplice perché via di qua la stazione è simbolo di evadere, cioè evadere da una realtà falsa comunque. Guarda, allora. Comunque il mito della stazione per il 5MDR potrei raccontarti le peggiori storie del mondo sui viaggi in treno, ma proprio come immagine, cioè cosa rappresenta, visto che finalmente ritorna in tutte e due per le vostre produzioni, cosa rappresenta la stazione a livello metaforico per il 5MDR? Allora, per quel che riguarda il secondo, cioè il disco via di qua, la copertina in realtà non è una stazione, è una foto di un uno stabilimento industriale di Vado, in cui c'è anche, ci sono anche queste rotaie che suppongo siano di servizio, sì, di servizio, esatto. Rotaie di servizio dello stabilimento medesimo. E l'abbiamo fatta perché vabbè, è una foto un po' degradante di Savona, e perché appunto ci sono queste rotaie, che tra l'altro me ne sono accorto dopo aver fatto la foto, che c'erano queste rotaie che comunque si sposavano col titolo del disco. Mentre in Stato di Allerta, il demo, potrei dirti tante cazzate, ma è la stazione di Savona, potremmo dire tante cazzate, ma in realtà è abbiamo preso una foto a caso, ci piaceva quella, l'abbiamo dei bei photoshoppata, esatto, e ci abbiamo messo quella. È bella anche nel libretto, forse per chi conosce Savona, è la foto notturna, no? Che dà l'idea, no, quella dentro, sì, presa dalla collina, mi sembra tipo dalla collina dell'Artisi, sì, come posizione. Mi sembrava dalla collina dell'Artisi. Che appunto vedi sta marea di luci che però dietro sembra non esserci nulla. Non c'è nulla sostanzialmente. Esatto, non c'è nulla, anche quella suppongo sia voluta, no? Come. No, assolutamente. No, non è voluta. No, deve essere un bellimento del buco. No, siamo dei gretti assolutamente. Ok, niente. Vedi come una volta quando va meglio a caso e poi. Giusto uno che le persone facciano queste considerazioni, così sembriamo persone intelligenti. Sì, ma che poi sono cose personali, magari. O magari uno le fa involontariamente. Quante volte accade, io di mio sono storico dell'arte, quindi certe cose so che uno crea un'immagine e poi gli piace, no? Ma non ha un significato apparente, ma un significato subconscio, che magari chi fruisce, no? Il fruitore diciamo dell'immagine, poi sforzandosi invece di capire fa riemergere. Può anche essere così, sì. No, sostanzialmente il mettere immagini di Savona nel booklet è stato appunto far vedere dove siamo cresciuti e dove ce ne vogliamo andare, e poi nelle canzoni, nella, soprattutto in Via di Qua, si spiega il perché. Certo, che ascolteremo. Nonostante Savona possa avere in certi scorci, in certi momenti, il suo fascino. Non siamo di quei gruppi che hanno l'idea della città nostra che è la migliore di tutte, è bellissima, c'ha il fascino e tutto. Savona è sostanzialmente un deserto di cemento con qualche chiesa ogni tanto. E ricordiamo la città con l'età media più alta al mondo. È vero, come dice la città più vecchia del mondo. Come dice Mr. Puma anche nel suo film, Savona mia, Savona mai, il paese nel mondo con più vecchi è l'Italia, la regione con più vecchia in Italia è la Liguria, e la provincia è Savona, e eccetera, la città eccetera, Savona. Eccetera, a livello matriosca la fine. Esatto, a livello matriosca sì, sì. È più vecchia. Poi ovviamente ci siamo cresciuti, nel senso è sempre casa tua. Esatto, non puoi non amarla, perché sei lì, è come odiare la come odiare la propria madre, non so come dire. Sì, è come dire, nasci nelle paludi, comunque le paludi è sempre casa tua, esatto. Nel senso. Ci avranno sempre odore di casa. Vuol dire che Stato di Allerta è molto esplicita, quindi parlarne, non so se vuoi aggiungere qualcosa, ma il concetto che esprime è veramente esplicito. Quindi sì, è un pezzo che ha scritto il nostro bassista, Filo, fra l'altro un sacco di anni fa, perché un sacco di anni fa. Per noi che abbiamo neanche 20 anni, 4 anni fa sono tanti anni fa. Non è che ci sia molto da dire, è un grido di rabbia contro la società. Magari non è tanto analitica, però ci sta anche lo sfogo nel nostro. Esatto. Sentita e sincera. Esatto. Vuoi aggiungere qualcosa, Isa? Vuoi fare la tua domanda o te la vuoi tenere per dopo? No, per dopo. Allora ci andiamo ad ascoltare Stato di Allerta. Specialmente a Stato d'Allerta, perché vogliamo farla una critica costruttiva, che io che sono amante del Tarellame preferisco la versione del demo, perché era più veloce, sì, mentre invece avete adesso nel nuovo album un suono più potente. Sì, ma a livello di suoni molto si deve al fonico della Città della Musica, su sulla velocità è che noi suoniamo, non suoniamo assolutamente a metronomo, quindi le cose vengono come vengono e non è una scelta, diciamo, è non un buon alla prima, ma cioè, suonava bene, abbiamo messo quella, sì, è un po' più lenta in effetti. E più potente, sì, perché c'è quel meno di velocità e quel più di potenza, come ti sto mimando adesso, mimando il suono della batteria che bacchetta di più. Adesso ci andiamo ad ascoltare Come te, che ti dicevo adesso nel pezzo non registrato, che è un anthem che ripercorre un po', diciamo, una versione che essendo stata scritta dopo, ulteriore passo in avanti rispetto a Da solo, che parla al di là appunto, se Da solo parlava di tutte le domande che ti fai senza risposta, di una certa ripetitività di un certo stile di vita, invece Come te parla proprio del fatto più dell'azione rispetto a Da solo, nel senso, comunque, appunto, il ritornello lo ti sempre, non tieni mai niente, esatto. Il centro, il focus è più spostato, come dire, sull'agire che sull'introspezione. Sì, ma insomma, io Come te l'ho scritta dopo un periodo che avevo preso un po' di calci nel culo, e però sia a livello, diciamo, metaforico che pratico, è vero, si cerca sempre di ottenere qualcosa e spesso non si ottiene, sia a livello politico che a livello personale, anche perché nel senso, non straripando di soldi, di possibilità, è difficile ottenere dei risultati. Ma per questo, vabbè, questa me la tengo per me, andavo un po' sul pesante. Sì, comunque nell'ambito punk, parlo anche nel mio piccolo, per la mia esperienza personale, delle cose che faccio io, l'unica cosa che paga alla fine è la perseveranza. Sì, nel senso che devi perseverare contro tutto e tutti, e al di là poi del... Sì, sono di tutti, di tutti i vari meccanismi. Sì. Controdotti tutti, tra l'altro nella canzone diciamo, gli amici vanno avanti e ti chiedono perché non cambi vita. Cioè, penso che l'abbiano vissuto un po' tutti quelli che sono entrati nel giro, che beh, naturalmente non è che viviamo isolati completamente dalla città, abbiamo amici. Che possono essere compagni di scuola, i colleghi che gente normali, esatto. I cosiddetti normali, un po' come in Harry Potter, i babbani, no? Che sì. Si chiamano babbani, esatto. più o meno nell'ambito, esatto. Anche tutti, o la famiglia che dice ma perché fai questo, costruisciti un futuro, fai certo. Qualcosa, parli che un futuro in cosa consiste adesso? Sì, non esiste, non anzi esiste. Il vero 70, io lo dico sempre, il vero 77 per noi è oggi, è ora, che porta appunto i giovani come te magari appunto a devastarsi, sì, in maniera esagerata, sì, e senza prendere il minimo impegno in nessun campo, perché oppure addirittura si arriva al paradosso del sesso visto come antistress, che non c'è più il piacere dell'incontro. Io ne conosco anche ragazzini giovani che passano da uno all'altro sempre di più e lo usano come antistress. Sì, già per uno come me, nato negli anni 80, sono tutti metodi, secondo me, di controllo mentale, perché cioè, alla fine ce la stanno facendo con tutta questa gente che se ne batte il cazzo, sta lì a spararsi il Grande Fratello, e sollecitava il cervello, stanno tranquilli, si trovano i loro sfoghi, che possono essere quello sessuale, quello della droga, il vandalismo anche fino a se stessi, sì, che magari, cioè, comunque gesti antisociali dettati dalla noia, sì, anche. Sì, per questo magari appartiene più alla sfera punk, autodistruzione, cioè, no, però no, però alla fine nel nostro ci mettiamo, sì, sempre un minimo, sì, di significato, sì, beh, certo, morale o un minimo di senso politico, sì, reale o apparente che sia, invece è proprio, sì, il gesto antisociale nichilista, proprio così tanto per, sì, sì, sì, ci appartiene di meno, sì, alle, sì, nostre sottoculture, cioè, sì, nel senso, uno magari, che ne so, comunque schierata a sinistra, non andrebbe mai a tirare sassi contro una sede dell'Arci, capito? Sì, no. Invece se uno fosse annoiato e basta, la prima cosa che è, non sta a vedere, sì, dove li sta tirando, questa, sì, piccola differenza che poi alla fine in realtà, sì, ma è più piccola di quanto si creda. Inoltre, secondo me, sono riusciti, ci controlla, è riuscito soprattutto a sottomettere quella sinistra ridicola parlamentare e anche extraparlamentare di tutti questi intellettuali che ripudiano la violenza, e ce l'hanno fatta, hanno convinto tutti che la violenza era sbagliata, hanno fatto ste troiate delle manifestazioni non violente, così lo sbirro appena ti vede è bello contento che tu stai con le mani in alto e boom boom boom boom. Io ovviamente per ovvi motivi mi dissocio da questa affermazione. Sì, naturalmente io era tutto in ambito ipotetico. Esatto. E di cose raccontatevi. Va bene, e quindi dopo questo momento di impasse politica, di cui ripeto io ufficialmente una lettera dalla questura. Io mi dissocio da tutto ciò, come ho sempre fatto, da che mondo, e ci andiamo ad ascoltare un inno di scazzo, ovvero Come te. Sempre nei guai, sentivi forte il grido, si alzava dentro te, la sete del domani, il dubbio lì con te. Nelle notti più buie, per strada solo te, ritornano i tuoi dubbi. Domandi perché combatti per qualcosa e non sai che cos'è, e cerchi nella nebbia, lei non è lì con te, e ancora ascolti il tuo cuore che urla, lo ascolti ancora perché sai che è come te, che lotti sempre e lotti sempre e non ottieni mai niente, sempre e lotti sempre e lotti sempre e non tieni mai niente, mai. Gli amici vanno avanti, ti chiedono perché. Perché non cambi vita, la tua attitudine. Combatti e sei da solo, e a volte pensi che forse ha ragione loro, ma ti ricordi che ancora ascolti il tuo cuore che urla, lo ascolti ancora perché sai che è come te, che lotti sempre e lotti sempre e non ottieni mai niente, sempre e lotti sempre e lotti sempre e non ottieni mai niente. Go! All'ultimo intervento parlato qui con Giulio per presentare il nuovo album, anzi il primo vero album dei 5MDR, MDR, ok, prova a dirlo 5 volte velocemente, veramente dura, che si intitola Via di qua, come il pezzo che stiamo per andare ad ascoltare. Ma prima di parlare di questo pezzo ci abbiamo l'ultima domanda da parte di Isa, che va ancora alle medie e già frequenta i punk. Questo no, non è elementare della verità. va alle elementari e già frequenta i punk, cioè tu cosa ne pensi di questa cosa? Come rovinarsi la vita già da subito, già da subito, esatto, già non proviamoci subito. Neanche esatto. Che domanda volevi fare, Isa? Volevo chiedere che cosa vuol dire il vostro gruppo, il vostro nome del gruppo. Ah, che brutta domanda. Guarda, trovi una parola con la M, una con la D, una con la R, vuol dire esatto dire. Ad esempio potrebbe essere 5 merde di rinoceronte. 5 merde di ragazzi, 5 merde di ragazzi, esatto, si rispecchia più oppure allora no, allora posso fare però la in teoria storicamente non parlare di quello che penso che stai per parlare, storicamente era 5 minuti di rivolta, esatto, sì, sì. Poi però è diventato come il nome di un noto gruppo hardcore americano texano che era gli MDC, che ognuno poi ci vede quello che vuole, quindi in origine era quello, poi te puoi dargli il nome che vuoi, 5 MDR, la M, la D e la R possono essere quello che vuoi. 5 marcatori della regina. Esatto, cioè... c'è di tutto. Sì. Ci andiamo ad ascoltare Via di Qua, vuoi fare prima, allora, prima da un po' di info, dove vi si trova, per i concerti, state, se avete scaricato vedete la pagina dei prossimi sulla pagina del download i prossimi concerti dove sono, ma se uno vi vuole contattare, vuole CD, chi ha coprodotto CD, ringraziamenti, saluti e tutto quello che ok, va bene, allora dunque le info sono, vabbè, il nostro MySpace www.myspace.com/5mdr, c'è una pagina Facebook, tutte queste belle cose per il controllo della società. Il CD è stato coprodotto da Marchiata, per la maggior parte da Marchiata Fuoco, che è un ragazzo di Lodi che ci ha aiutato anche, ci ha aiutato un po' per tutto quello che concerneva il CD, ovvero le grafiche, la stampa e tutto quanto. Poi è stato coprodotto da dalla GDA Torino, che è un gruppo di ragazzi di Torino, e dalla Still Standing Army, che sono dei ragazzi del sud, da cui fra l'altro fra un po' andremo a suonare. E niente, vabbè, saluti e ringraziamenti, sicuramente un grazie e un saluto a Pablo dell'Uguaglianza che ha fatto un pezzo con noi, cioè Via di Qua, che è quello che andremo poi a ascoltare, esatto. E poi saluti e ringraziamenti a sicuramente a Robertino Riggiero, ma comunque ci sono scritti sul booklet del CD, nel senso lui, gli altri componenti dei 5, gli altri componenti dei 5 MDR, grazie, che non sono immeritati, tra l'altro un ringraziamento immeritato, la data Varazze e tutto quanto, sì, quella bella trasferta a Cremona, ma... quasi c'è da dire, sono trasferta a Cremona, facciamo che era la ragnatela che c'ha era proprio fresca quando siamo andati a vedere i Bootstroke a Cremona, e lui era paranoiato che andasse via il colore. Non è che mi andasse via il colore, solo che era appena fatta, quindi la gente mi strusciava, infezioni, si poteva rovinare, faceva male, perché se uno mi strusciava su tutta la ferita aperta non era. E però c'era Mirko che aveva anche lui, sì, appena fatto il tatuaggio, salutiamo Mirko, l'ho visto per qualche giorno. E Via di Qua, che appunto c'è featuring Pablo Henry Rollins di Varazze, come gli avevo detto tanti anni fa, e ancora adesso mi dice io sono Larry Rollins di Varazze quando mi vede, quindi si vede che dopo tanti anni gli ha fatto piacere quella definizione lì. Via di Qua, che appunto rappresenta un po' la summa alla fine, non per niente anche l'ultimo brano, sì, nell'album, che dice che, come dire, a summa di tutto quello che abbiamo detto prima, bisogna portare via il delino. Sostanzialmente quello che viviamo vivendo a Savona, il fatto che appunto ci siano queste piazze vuote, piazza Sisto di sera, il più delle volte che fanno le loro cose, il comune con quei gruppetti, la sagra del Pestarolo, queste cose qua, se no è il deserto, cioè la gente, se no ci sono le discoteche chiaramente in Riviera, dove la gente va, si strina e tutto quanto. Se no, per chi ha interessi un po' diversi, non c'è proprio niente, c'è solo andare al porto, ubriacarsi e raccontarsi quella dell'uva tra di noi e dire sì, però c'hai ragione, sì, sempre sì, le stesse sì cose. E siamo i padroni di una città che non esiste, esatto. Eccetera, eccetera, eccetera. Ma niente, sostanzialmente questa è la cosa, Tra l'altro andare via di qua e poi andare dove, però? Cioè, è un po'... la domanda che lascia intendere che ci sarà un sequel. Speriamo, speriamo anche perché... Cioè, guarda, noi... a molestare di nuovo. Esatto, noi stiamo giusto parlando in questo periodo di darci un po' di mollo con le date e iniziare a fare cose nuove. Perché comunque vabbè, il disco è uscito a marzo, ma l'abbiamo registrato a novembre. Quindi i pezzi comunque sono vecchi e abbiamo voglia di metterci sotto a fare qualcosa di nuovo. Ora vedremo un po' di decidere. Comunque bisogna fare appunto sempre com'è, no? Se c'è l'urgenza, fare, no? Sì, esatto. Beh, quello è quanto. Va bene, io ti ringrazio. Grazie a te. Di questa intervista. Adesso ci andiamo a bere una bella birra e chi vedrà. Chi vedrà vivrà. Sì, esatto. E ringrazio anche ovviamente Arianna e Isabella di essere state qua. Sono un po' sverso perché ho mangiato ieri fritto, sono mezzo ancora sverso. I fumi del fritto che... sì, i fumi del fritto nel cervello. Volete salutare qualcuno? No, particolarmente. Associarci in fondo. E quindi niente, al prossimo mese con un'altra intervista di The Night Podcast, sempre su disorderdrama.podomatic.com. Tu li seppellirai.